piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te, nessuno sa la verità. Alla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te, nessuno sa. Yes.